Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto Mondo. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say Assalamu alaikum, peace unto thee, shalom. Giulia, buongiorno, ben ritrovata. Le parole che abbiamo sentito, beh, di chi sono erano? Comunque, insomma, diciamo, comunque la si pensi parole balsamiche, perché sentire Netanyahu, che da uno storico balcone della Casa Bianca dice a tutti gli amici del Medio Oriente, e quelli che ci sono oggi, quelli che ci saranno, e dice la parola pace, la pace sia con tutti voi, lo dice prima in arabo, poi in inglese e poi in ebraico, credo che sia comunque, insomma, un bel messaggio, ripeto, da qualunque punto di vista poi lo si voglia commentare. Sì, abbiamo raccontato un po' la cronaca, ci sono stati poi razzi partiti da Gaza su Israele, la risposta israeliana, perché insomma i palestinesi non sono soddisfatti. Guarda, da questo accordo. Naturalmente la foto, quella foto in particolare che ritraeva Netanyahu, sì, parlare con di fianco Trump, il rappresentante di Bahrain e Emirati Arabi Uniti, è veramente su tantissimi giornali, però il commento più interessante l'ho trovato sul New York Times, è di Thomas Friedman, e sì, Thomas Friedman sono 40 anni che copre la questione della pace in Medio Oriente, e ti leggo le prime parole perché è davvero, il pezzo si intitola Il triangolo amoroso da cui è nato l'accordo di pace. Scrive: il modo migliore per spiegare l'accordo è fare un'analogia con una soap opera. È come se Kushner, che è il genero di Trump, considerato l'autore di questo accordo, fosse un avvocato matrimonialista chiamato per trovare un accordo di divorzio tra la signora Israele e il signor Palestina, ma l'avvocato si accorge che i due sono talmente incompatibili che non riesce nemmeno a tenerli nella stanza insieme, figuriamoci trovare un accordo di divorzio. Però scopre che la signora Israele ha una tresca con il signor Emirati Arabi Uniti, che a sua volta scappa da una brutta relazione con una donna molto violenta, la signora Iran. Certo. Così l'avvocato trova un accordo, anziché cercare un accordo di divorzio tra la signora Israele e il signor Palestina, si focalizza sul desiderio di vivere insieme felicemente tra la signora Israele e il signor Emirati Arabi Uniti, e trova anche un sensale molto di buona volontà, cioè Mr. Trump. Stacco pubblicitario, così scrive Friedman. Naturalmente è lui stesso a dire: è talmente inaspettato anche per noi questo accordo che dobbiamo trovare dei modi diversi per spiegarlo. Da qui in poi, naturalmente, quello che succederà, purtroppo abbiamo già visto i missili da Gaza, è tutto da decidere, però questo passo è fatto, quindi insomma comunque adesso ci sono titoli più o meno trionfalistici, i giornali magari più favorevoli a Trump o magari più conservatori hanno dei toni già più trionfalistici, però insomma è un fatto, poi certo si apre la questione e da qui, e la Palestina a questo punto che cosa fa? Giulia, la vicenda TikTok è ancora nei titoli, mi segnali, no? Sì, dei giornali americani. Sì, Wall Street Journal appunto ha questa foto, però il titolo principale è di TikTok, che a questo punto è sfumata la possibilità di un'acquisizione da parte di Microsoft, sfumato l'accordo di partnership con Oracle, sono sempre rumor, diciamo, non c'è ancora niente di ufficiale. TikTok a questo punto dovrebbe diventare a tutti gli effetti un'azienda americana, che quindi di diritto americano, che sottostà alle regole americane. E forse in questo caso anche i cinesi, che settimana scorsa con toni molto duri avevano detto noi una vendita così, una svendita, non la consentiremo mai, a questo punto forse potrebbe essere una soluzione accettabile anche per i cinesi. Cioè di fatto TikTok diventa americana, però mantiene una sua autonomia senza essere diventare parte di un'altra azienda americana. So che ci vuoi far ascoltare anche un'altra voce oggi a Effetto Mondo, ed perché è quella di... naturalmente ci sono tantissimi articoli su questo accordo, ma poi c'è la campagna elettorale che, come abbiamo detto ieri, è anche influenzata dagli incendi che sono l'apertura di USA Today per esempio in California e in Oregon, ma anche dai tanti problemi interni di Trump. Sappiamo dei libri che sono usciti, abbiamo parlato di quello del suo ex avvocato personale Cohen, questa è un'intervista alla figlia Siria, perché nel libro si racconta anche di come Trump, che ricordiamolo è anche accusato di aver avuto un'amicizia fin troppo stretta con Epstein, il pedofilo violentatore, suicida si dice in carcere, in questo libro si racconta che Trump, quando questa ragazza aveva 15 anni, la figlia di Cohen, aveva fatto dei pesantissimi apprezzamenti su di lei. E qui c'è la giornalista che proprio legge le parole di questo libro di Cohen. Sentiamo. Andiamo. La sua voce. Cohen recalls Trump saying as he whistled and pointed, quote, "I would love some of that." It so happened that Trump was referring to Cohen's then 15-year-old daughter Samantha. Sì, appunto, dice, la vede arrivare nel club sportivo dove era insieme a Cohen, che era appunto il suo avvocato, e dice, ma com'è hot quella ragazza di 15 anni, e poi naturalmente si scopre che era anche la figlia, poi fa apprezzamenti ancora più pesanti dicendo, beh, sicuramente grazie a tua moglie, perché tu non sei certo un bell'uomo. Insomma, vengono fuori questi aspetti molto controversi della personalità di Trump, sui quali comunque continuano a insistere i giornali che gli sono più ostili, quindi il New York Times ma anche il Washington Post. Ci sono tante notizie oggi che ci segnali sul giornale internazionale. Giulia, il ritorno del pubblico sugli spalti degli stadi in Germania. Sì, i tedeschi sono giustamente il Tagesspiegel titola infatti: la Bundesliga lascia che i fan tornino negli stadi, grande spazio a questa notizia anche sulla Bild, che sappiamo è il quotidiano più letto in Germania. Bundesliga zum Start, quindi di nuovo con i fans. E poi però c'è anche spazio sia per la notizia di Navalny, che i familiari hanno diffuso questo primo scatto, e poi anche sulla decisione. Qui il numero non è ancora sicuro, però la Welt parla di 1500 e Financial Times addirittura parla di 2700 i profughi da Lesbo che la Germania sarebbe pronta ad accogliere. Non è soltanto un annuncio, starebbe già proprio predisponendo delle strutture dove queste persone in fuga dal campo profughi di Lesbo possano arrivare in Germania. Una curiosità sulla notizia sempre degli stadi: c'è un qualche dettaglio su come faranno rientrare il pubblico, cioè quanta gente potrà rientrare, come fanno? Sì, le prime partite, che proprio viene chiamato un test, con il 20% o il 25% massimo della capienza dello stadio, che comunque insomma meglio che le sagome di cartone. Sì, molto meglio. Allora, perché l'arcivescovo di Canterbury è contro la famosa regola del 6, Giulia? Sì, io credo che forse sarebbe stato più onesto da parte sua dire naturalmente la regola del 6 impedisce la ripresa regolare delle funzioni religiose. In realtà lui dice che in questo modo a soffrire di più saranno gli anziani e le persone più deboli, perché sono quelli che comunque non potranno più uscire, andare per esempio al pub, incontrare gli amici. Però ecco, che questa regola del 6, perché poi uno dice 6, se 6 sono tutti appiccicati, non credo che ci sia tanta differenza tra 6 e 100 distanziati. Però insomma fa capire che queste nuove misure, un po' così, quasi una da un governo messo nell'angolo, quello di Boris Johnson, che combatte anche sul fronte della Brexit, non sono state facilmente accettate, a dire il vero, neanche dalla comunità scientifica. E se vuoi l'ultimissima notizia positiva invece sul fronte Covid, South China Morning Post di oggi, che è un giornale di Hong Kong non liberissimo come potrebbe essere un giornale occidentale, però comunque abbastanza indipendente, dà la notizia che il Center for Disease Control cinese, quindi diciamo il centro per un po' l'equivalente della nostra agenzia del farmaco, ha confermato che massimo per la fine di novembre nella mainland China, quindi non a Hong Kong, non a Taiwan, sarà disponibile proprio il vaccino, cioè comincerà a essere distribuito e inoculato. Quello cinese. Sì. Vedi. Di cui ricordiamo sempre, in realtà sappiamo molto poco. Sappiamo che lo stiamo sperimentando, mi pare, sulle forze armate, esatto, sull'esercito, esatto. Qualcosa del genere. Giulia, abbiamo ancora pochissimi secondi. Un titolo in Francia, in Spagna. Sì, se vuoi comunque è il Paese che continua a parlare di questa seconda ola, però magari nei prossimi giorni ci soffermiamo. Abbiamo un po' ignorato un po' la Spagna. In realtà la Spagna sta comunque attraversando una crisi politica abbastanza seria, perché Podemos ha dei guai con la giustizia, un sacco di inchieste, sappiamo che è un alleato di Sanchez, quindi anche lì si sommano tanti fattori che fanno un po' dell'uscita dal lockdown una tempesta perfetta per la Spagna. Grazie Giulia, domani è tutto per la puntata di oggi con Jacopo De Franchi, redazione Pietro La Corte e regia. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata.